So che mi state ascoltando. Avverto la vostra presenza. So che avete paura di noi. Paura di cambiare. Io non conosco il futuro. Non sono venuto qui a dirvi come andrà a finire. Sono venuto a dirvi come comincerà. Adesso appenderò il telefono e farò vedere a tutta questa gente quello che non volete che vedano. Mostrerò loro un mondo senza di voi. Un mondo senza regole e controlli, senza frontiere e confini. Un mondo in cui tutto è possibile. Podcast del Nowhere Blog, grazie al podcast. In studio qui Daniele. Salve. Edo e un ospite a sorpresa. Ehi. Va bene, allora questo nuovo episodio abbiamo iniziato un po' all'insegna del movie. Del cinema. Sì, e quindi oggi parleremo della prostata. No? Non è quello il tema? Non lo so, è un tema che va, credo. Ma il mio nome è E? No, non mi hai presentato. No, il suo nome è Prostata. No, beh, è un ospite misterioso. Mister X. È Riccardo, vabbè. Che palle. E questo ci avevamo. E che cazzo dovevamo fare? Ci avevamo questo. Va bene. Allora tematica del giorno. Film. Partiamo con la sigla da film. È importante partire con la sigla. È molto importante partire con l'ora di cinema. Parto con la sigla. Parti con la sigla. Vai. Sì? Non potevi cambiare le pile stavolta. Sono dimenticato. Vado a prendere le pile. Le ho messe in carica. Mi sono dimenticato che dovevano essere 20 ore. Ma questa versione è veramente bella. Piace. Ha un certo qualcosa. Non avevo capito se eri stato te ad aumentare o diminuire. No, sono le pile. Sono le pile. Vanno e vengono. È un po' così. E questo proprio si è caro. Sai perché? Perché non sono di quella famosa marca che tiene gli orsetti che vanno per ore e ore. Sono neanche quelle di Iron Man. No, ma quelle sarebbero adatte. Quelle spaccano. È riuscito a fare un generatore incredibile dal nulla. E così magicamente siamo entrati già in argomento. Mai visto come facile? Ma è bellissimo. Guarda, non ce l'eravamo tipo preparata. Tipo ho premuto stop e poi rec. Cioè, bene, sono passate 5 ore dall'inizio della trasmissione. Beh, più o meno, perché per la scelta della musica è mica palle. Va bene, ma volevamo parlare di questo meraviglioso film un po' canonico. Canonico, ecco. No, beh, dai. Sì, ha un po' di retorica classica, America, sì, esatto. Però ha i suoi perché, tipo Gwyneth Paltrow. Ha il suo perché. Insomma, no, bene, bisogna dire che tra i film della Marvel è sicuramente uno dei più belli che abbiano. È venuto bene. Sì, abbastanza carino, Io ho apprezzato molto Spider-Man 2. Il 3 non l'ho ancora visto, io penso un po'. No, ma hanno detto non lo guardare. Il 3 è un po' strano. Sai quando ci mettono tipo delle gag un po' strane? Anche in Iron Man ci sono, quando lui comincia a fare. Non possiamo anticipare cose particolari. Ma parliamo un attimino. Finisce che alla fine lui muore! Parliamo un attimino della trama, perché sennò i nostri simpatici amici ascoltatori vengono qua e dicono: ah, ma ascoltiamo il podcast del Nowhereblog. Del blog. Che cosa, scusa? Del Nowhereblog. Sì. Meglio conosciuto come Grazie al Podcast, no? Perché è un podcast. Oggi non riesco a parlare. È un podcast che fa informazione, non dice solo puttanate. No, fa anche molta informazione. Informazione. Attraverso le puttanate. Puttanate. Esatto. Parliamo un attimo di aspetta, sì, dica. Direi una cosa, se mettiamo prima informazioni a vanvera su altri film come fanno al cinema. Ah, ok. Pubblicità aspetta. A caso e poi. Sì, ma nuovo, ma basta. Ma non è che puoi metterla tutte le volte che uno si dice cinema. Ci deve essere un contatto. No, non è possibile. Vai, ma tutte le volte che uno dice. No, quella... Lenny! No, basta. Quella parola là. Allora, vabbè, comunque, tanto che va la canzone. Ah, parliamo di una cosa che. Iron Man l'abbiamo visto ieri sera. Sì, sono sbarrellato. Lui non parla, io sbaglio le parole. Ma come? Vabbè, io sto intanto al mixer, ragazzi, non è mica facile qua. Vabbè. Parliamo di Iron Man. No, aspetta. Non stavamo parlando di altri film. Altri film? Ah, già, prima, dopo. Allora, parliamo di altri film. Tipo? Allora, tipo il film, anzi il trailer di Sex and the City. Ah, che palle. Beato te, perché io stavo per avere uno scompenso, non ce la facevo durava più. Durava 8 ore. 8 ore, praticamente era un episodio di Sex and the City messo un po' prima del film. Non la reggevo più. Me era male, dai, Sex and the City. Sex on the City. On the City? On the Rocks. Non è male, on the City. Ma insomma, che palle. No, qual era l'altro che era bellissimo? Brats. No, aspetta. In uscita dal 6 giugno in tutte le sale. Brats. Insegna alle ragazzine di 14 anni, 13 anni, anche meno. Perché? 10. Perché sì, perché siccome... Allora, la ragazzina... L'indirizzamento del film più o meno quel range lì, 14 anni. Però la ragazzina, siccome vuole sentirsi grande, anche a 8 rompe i coglioni ai genitori per andarlo a vedere, no? Quello delle Brats sono tipo le Wings. Sì, sai quelle con le capoccione che spettano alla sì, moda? No, vabbè, ecco, no, ti insegna. No. Meglio le Wings, almeno. Per cortesia. Ok. Vabbè, in ogni caso, entrambi insegnano a essere troia. Beh, cioè. Io sto aspettando il film dei Gormiti. Dei Gormiti hanno fatto il musical, però. Il musical dei c'era Gormiti. Teatro. Io volevo vedere gli attori che entravano in scena con i costumoni di gomma. Una cosa orrenda. Io l'ho visto al telegiornale. È una cosa terrificante. Sono la terra. Ma tu sai anche le cose, cioè, basta, vai via. Non è possibile. Sono il sudore. Cosa? Questi sono l'omino bianco. Sono i mostri dell'omino bianco. Ma parliamo di Iron Man. Omino bianco contro i Gormiti potrebbe essere l'idea per un film. È un film razzista. Parliamo di questo Iron Man. Iron Man, allora parliamo un attimo di Iron Man e spieghiamo la trama. Allora, chi è Iron Man? Vabbè. No, beh, allora la trama. Cosa parla? C'è uno. Dunque, no, c'è un che tipo... diventa un supereroe. Sì, poi no, vabbè, sconfigge il cattivo. Fine. Diciamo che. Cazzo, fino a... arrivato al finale! No! Diciamo che la trama è sempre la solita. Però in realtà in questo caso il film l'ha fatto un po' meglio perché. Perché. Insomma, questo personaggio. Io non ho letto i fumetti, ma ha detto che è abbastanza vicino al fumetto. Sì. Questo personaggio qua è un borioso del cavolo. Cioè, è uno. Come Dia, diciamo, come Riccardo. Esatto, perché io non ho tutti quelli. Quello no. Vabbè, questo John Stark mi pare. Tra l'altro, lui ha moltissimo successo con le donne. Moltissimo, esatto, il mio contrario. No, vabbè. No, dai, te la cavo. E vabbè, praticamente viene rapito dai terroristi, giusto? E viene ferito da una scheggia. Da una scheggia di ferro, mi pare. Di una delle sue bombe che produceva esatto, lui. Sì. Gli arriva vicinissimo al cuore. E quindi per rimanere in vita deve utilizzare un elettromagnete vicinissimo al cuore. Che prima è una batteria. Sì, da macchina. Deve riuscire a trovare una sorgente energetica che gli permetta di mantenere attiva questa elettrocalamite. E quindi si inventa un. Poteva usare l'energia eolica. Vabbè, diciamo chiaramente che è una puttanata, non fatelo a casa. Non fatelo a casa per provare. Però vabbè. Al contrario di Tony Stark, che senza problemi a casa. Per favore, fa contatto qua. Mi la mano. No, spieghiamo tutto. Comunque, praticamente. Diciamo, stringi a un reattore nucleare attaccato al petto, se ho capito bene. Si riesce a crearlo tramite un po' di del palladio. Del palladio che uno trova così sul caso. Esatto, beh, l'ha preso da altri. Lo costringono a costruire una. Lo imprigionano dopo questa cosa che lui rimane. Insomma, coinvolto in questo scontro a fuoco nel deserto, viene imprigionato da dei terroristi che lo costringono a costruire un'arma con dei pezzi di suoi stessi armamenti. E lui è a sorpresa. E lui è a sorpresa, aiutato da un personaggio secondario, vabbè. Uno scienziato, esatto. No, Batman è uno scienziato. No. Batman è uno scienziato. Non è Batman. Quello è un altro film, lo fanno a luglio. Ok. Vabbè. Stavo dicendo comunque che alla fine riesce a creare un'arma che però non è un'arma, l'arma che vuole loro, ma proprio lui stesso. Esatto, l'arma. È un esoscheletro. È un esoscheletro, un'armatura potentissima con la quale sconfiggerà tutti i cattivi, vabbè, ma non andiamo a spiegare meglio il film. Notevole spiegare troppo trama. C'è un po' di retorica dietro questo film. Sì, beh, le solite, c'è il cattivo, c'è il buono, c'è il borioso che diventa, che cambia... Mentalità, oddio, rimane borioso perché si bulla lo stesso. Vabbè, però vabbè. Ci sono delle scene, beh, queste non, cioè, possiamo anche dire, ci sono anche nei trailer che c'è lui che spara un missilino cazzuto e poi esplode mezzo mondo. Sì, esatto, e dalle spalle come un figo, giustamente. La cosa che dalle spalle è molto. Vabbè. Notevole voi non date le spalle a casa, non si sa mai. Notevole la partecipazione dello zio Phil nei panni del socio di Tony Stark. Datemi i piani dell'armatura, Willy! Per chi è interessato c'è anche Gwyneth Paltrow, che alcuni di voi ricorderanno per la pubblicità Sliding Doors, bravissimo, e la pubblicità del Martini tra l'altro, Martini rosso, certo, Martini, bravo, esatto. Adesso chiedeva Martini con tante olive, tante olive, esatto. Anche succo di olive. Sliding Doors è stato, a me è piaciuto molto, c'era la Lidia. Sì. Quella è Lidia e fa la madre a vacca, esatto. Pochi di voi sanno chi è Lidia e non lo saprete mai, di un amico. Va bene. Saluti a questo caro amico, ciao, che sicuramente ciao, non ci starà ascoltando, ma sicuramente però è modo di farglielo avere. Va bene, se ci ascolti indovina cos'è questo cupino. Va bene, ma è tornato il momento della musica. Allora, questi sono i Kazoo Funk Orchestra con Dirty Dinner. Say you see time, girl. It's on my mind. The dark. posture in us. Say, do we have to? I don't know what they'll approve. Dirty dinners. Say, you see, time, girl, it's on my mind. The thought of you. Kazoo Funk Orchestra con Dirty Dinners. Allora, un gruppo strano, come altri gruppi strani che troviamo su Giamendo, che però su? Valgono la pena. Giamendo.com. Cerchiamo sempre di trovare qualcosina di interessante, cose mainstream, ma cose anche un po' più particolari. Questo, per esempio, era un gruppo che, come il nome lascia intendere, eseguiva la sua composizione attraverso questo strumento strano che è il kazoo, che è uno strumento in cui si soffia e si canta dentro. Strumento preferito dalla Lidia. Il kazoo. Sì, esatto. Ma lei non soffia proprio, lei fa un po' un'altra cosa. Altro. Vabbè. Andiamo avanti. Ma parliamo d'altro. Parliamo d'altro. Volevamo parlare di allora, abbiamo parlato di film. Film. Ah, non odierno, film odierni, e quindi vorremmo parlare di film, pellicole, esatto. Ma dan cinema del fatto. Porca troia, mi è scappato. No, porca puttana. Allora Edo, per favore, dai, non è possibile. Oh, porca puttana. Vabbè, vedete, stare attenti a non dirlo più. Comunque, no, allora, perché sì? È finita tutta adesso? Finché fa contatto. Vabbè, troppo è. Vediamo, vabbè. Stavi dicendo di quelle cose che si vedono in quei posti belli nel passato? Che cosa? Che cosa? Multisala. No, i film. Multisala. Multisala, chiamiamolo multisala. Va bene, allora. Vabbè, occhio. Allora, volevamo parlare di questi film del passato. Allora, quali? Beh, uno che. Film del passato che guardano al futuro, però. Esatto, esatto, perché abbiamo iniziato con Matrix, che già lì era ambientato in questo 99 alternativo, solo nella realtà virtuale, perché in realtà non sì, era sì. 1999, ma un passato, un futuro, un futuro che guardava passato al futuro passato. Sì, un antico futuro. Bello, questo qua ci ricorda qualcosa, sì, vecchi sì, ricordi vecchi fumetti, di pick up. Vabbè, ma allora volevamo appunto parlare di altri film che ci ricordano il futuro, però del passato. E allora con stesso protagonista, tra l'altro. Sì. Attore. Ah, beh, perché tu l'attore vuoi parlare già di quello lì. Sì. Sì, è quello che, a cui pensavamo, che fa anche da Trey Dugnon. Chi è quello lì? Johnny Mnemonic. Chi è il protagonista? Keanu Reeves. Ah, ok. Keanu Reeves. Chi non ha visto Johnny Mnemonic? Lui. Dicono, alcuni critici dicono che appunto era alle prove per poi partecipare a Matrix, Keanu Reeves, in questo film. Com'era la trama? La trama è: lui si è fatto impiantare una sorta di memoria interna al esatto, cervello. Esatto. E la utilizza per trasportare dei dati per di contrabbando. Una USB umana, diciamo. Esatto, sì, una chiavetta USB. Una chiavetta USB umana, aveva un anellino all'orecchio, alcuni gli regalavano le chiavi e se lo portavano in giro. Vabbè, comunque, qual era la cosa particolare? Che all'epoca, a un certo punto gli chiedono di trasportare una ingente quantità di dati. La scena più o meno è questa. Oh mio Dio, un gigabyte di dati, non ce la posso fare. Non ti preoccupare, caricali e basta, reggerò il colpo. Cioè, è schizofrenico. Sembra che sta facendo Keanu Reeves. Massima era alternativa. Ah, cioè. Giusto, vabbè, sto giga praticamente in passato era una cosa allucinante. Adesso è una puttanata. Vediamo la stessa iPod. Scena. Beh, rifatemi sta scena ai giorni d'oggi. Quanto devo caricare? Un giga. Tieni l'iPod, carica, lo vado in bagno. Basta. Cioè, quindi ormai, cioè, questo giga è... Sto giga. Adesso terabyte dovrebbe essere un sacco di memoria e già però cominciano a uscire gli hard disk da qualche terabyte, sì, quindi. Che vuol dire 1000 gigabyte, quindi siamo già addirittura oltre. Siamo avanti. Ma altri film che parlano del passato, così, del passato che parlano del futuro. A me viene in mente Demolition Man. Grande film con Stallone. Quando ancora lo doppiava Ferruccio Amendola. L'unico doppiatore valido. Era bravo. Era una figata. Dava una certa sostanza al nostro... Era bello come faceva andare la voce. Quando chiede il topo burger. Demolition Man è quello che lui viene ibernato. Esatto. Che, si poi, sveglia, che poi si sveglia, dopo, sveglia perché, dopo 35 anni. Perché non si sa perché, ma non fatto evadere l'altro. Non si sa perché. L'altro veniva fatto evadere. E quindi svegliano anche lui. Per uccidere un altro. Che poi lui era stato ibernato perché era riuscito a bloccarlo, era però riuscito... aveva comportato l'uccisione di alcuni, esatto, sì, di molti ostaggi, esatto. Poverino, fine. Demolition Man. Poi c'è Sandra Bullock. Mi ricordo di Sandra Bullock. Anche io mi ricordo di Sandra Bullock. Che quando gli dice facciamo l'amore insieme e poi sì, gli mette il casco. Esatto, e poi gli mette il casco. Ragazzi, non fatelo. Come no? Usate le protezioni. Il casco, la cintura, le gomitiere, le ginocchiere. No, una scena che non ricordavo invece è quella delle tre conchigliette che mi avete detto voi prima, ma io non. La scena delle tre conchigliette era praticamente nei cessi, anziché. Nel passato, nel futuro, utilizzavano dei fogli di carta morbida. Ah, sì. E loro si guardano tra di loro del futuro, sorridendo. E lui non si sa servire delle tre conchigliette. Per ottenere la carta si mette a dire parolacce contro un cos'è che è tipo è un vigile... distributore automatico di multe. Perché nel perché nel futuro è vietato dire le parolacce. Quindi si avvicina e dice. Allora, brutto figlio di puttana, stronzo, pezzo di merda. John Spartan, lei è multato di 5 titoli. Una telefonata in diretta, attenzione. Pronto? Il risultato è... Ciao mamma. Che ottiene la carta igienica. Sono da Edo, stiamo facendo... Grazie al podcast. Sei in diretta, mamma. Sei in diretta. Saluta tutti. Aspetta, saluta, Non ci sento. Ecco, va bene. E quindi conclude questa sua operazione di distribuzione carta. Estraendo dalla macchinetta questi pezzi di carta, queste multe, dicendo sono meglio delle conchigliette. E anch'io devo dire, chiamatemi romantico, sì, ma a me piace ancora utilizzare la carta. Bravo. Meno male, guarda. Un futuro perché un po'... non fare tutto manualmente come facevano gli antichi? No, gli antichi avranno usato le foglie, avranno usato qualcos'altro. Le foglie adesso di si ortica. Piccavano le dita, cioè. Perché tu c'eri? No, però una DeLorean. Figata, magari. Impairai. No, mica, immagino una DeLorean fighissima. Quando abbiamo preso la DeLorean per la prima volta, gliela pittano tutta con le fiamme di fiacco. Che schifo. Cerchi in Lega. Che schifo. No, vabbè, la DeLorean... Martin, guarda, nel tuo portabagagli abbiamo messo un dispositivo per viaggiare nel tempo. Sorti, sappiamo che ti piace viaggiare nel tempo, perciò nel baule abbiamo messo un flusso canalizzatore. Vabbè. Wow. Sono le tipiche reazioni, esatto, della gente che c'è. Assolutamente naturali, tra l'altro. Sì, esatto. Non saranno preparati. Tipo fanno vedere gli errori davanti a casa. Ma stavamo parlando della DeLorean. DeLorean. Che cos'è la DeLorean? Spiegamolo bene, perché magari qualcuno non l'ha vista. Tra l'altro aveva un telaio micidiale in un materiale stranissimo, tipo titanio e oro come l'armatura. No, era una roba, non fece molto successo in realtà come automobile. Non fece molto successo, ma perché era anche a tiratura limitata, se non sbaglio. Sì, costava sì, anche un fottio ed era una gran macchina. E vabbè, praticamente, ma chi non conosce la trama, qualche sfigato che non merita neanche di ascoltare questo podcast, direi. Esatto. Adesso stanno spegnendo tutti. Tutti quasi se ne vanno a casa. L'ho visto. No, vabbè, comunque un film eccezionale, anzi i film sono eccezionali perché tutti e tre episodi sono molto belli. C'è questo ragazzo che viaggia nel tempo attraverso questa macchina, casualmente. L'inventore Doc Brown, interpretato da il ragazzo è Michael ragazzo J. Fox. Un mitico Michael J. Fox agli esordi e invece lo scienziato pazzo che inventa questa macchina straordinaria è Doc Brown, interpretato invece da un magistrale Christopher Lloyd, rimasto negli annali. Esatto. E niente, alla fine questo ragazzo viaggia nel tempo, incontra i suoi genitori, poi c'è tutta una prima storia del primo episodio. Comunque per gli appassionati, viaggia nel tempo è proprio una cosa eccezionale. Molto bello, perché poi negli episodi successivi si rivedono delle citazioni dal primo, trame che si intersecano, cose molto divertenti, insomma... un film ben architettato. Voi pensate che questo film, se non l'avete visto, dovete vederlo. No, questo sicuro. Voi pensate che all'inizio la prima scelta era un frigorifero, se mi ricordo male la scelta. Non hai visto i contenuti speciali? Io ho visto i contenuti speciali, la prima scelta c'erano i disegnini con un frigorifero. Poi fortunatamente hanno avuto la bella idea di cambiare e prendere una macchina, perché come dice Doc, dovendo trasformare una macchina in una macchina del tempo, perché non usare una bella macchina? Peraltro il telai, spostati Martin. Non so come, ma mi hanno trovato. Mi hanno trovato. Citazione anche che abbiamo ritrovato anche in un famoso fumetto, no? Mi pare si tratti di PK. È sempre quello. È vero. Vabbè. Va bene, prossimo pezzo: The Modern Fighting Vehicles con Neon. Con Neon. Ed ora una nuova eccitante rubrica dal titolo I carciofi son maturi se li mangi poco duri. I carciofi son maturi se li mangi poco duri. Le ciliegie nel paniere quasi sempre sono nere. La lattuga nel barese ha le foglie larghe e tese. I finocchi delicati puoi questo trovarli surgelati, ma chissà perché. Se ne frega, non capisci la poesia. Ma ascoltate, secondo me è bella come canzone perché è semplice, è umile. Parla di cose belle, cioè la verdura è come il pane, cioè io faccio il pane però mangio anche la verdura. E comunque guarda che è elaborato. No, ma aspetta, guarda che esatto, riprende questa umiltà, è la canzone del popolo. Ah, ce l'ha solo. Comunque questo gruppo, dai, diciamo un po' che gruppo è. Io ho fatto cercare in vano a Edo prima Ladre di Vento, ma non erano le figlie del vento. Autrice anche di un altro pezzo oltre a questo qua, che cioè sugli bane. Non cercate sugli sunni, non lo troverete. sugli bane. altri tu li miscugli. Mi scugli le banane. Mi scugli le banane. Miscugli salsa verde, chi le mangia nulla perde. Ecco, esatto. Reni le conosce per cortesia. Ma perché sono umidi? Giusto, giusto. Ma adesso è un crescendo, la ripetizione è sempre la stessa ripetizione, ma in tonalità differenti. Sì, ma all'inizio è inquietante. Ma come stai dicendo te prima, questo sono messaggi subliminali. Secondo me l'inizio, che già è demoniaco di suo, sentito al contrario. Ma scusa, hai finito di dire che è una cosa umile. Ma no, ma è umile come parlare di cose al contrario. Cioè, se io ti mando dei messaggi subliminali col pane, perché se tu guardi la parola pane, sostituisci una vocale, già un messaggio subliminale è quello. Capisci? È una cosa umile. Allora, iniziata questa rubrica, una rubrica musicale, da quello che ho capito. Sì, parliamo di musica. Parliamo di musica. Allora, di cosa possiamo parlare? Qui sommatore, sei poco vabbè. E possiamo dire che i nostri genitori sono cresciuti con queste cose, perché a mia mamma sono andato da mia mamma e gli ho detto: ma tu la conosci questa? Ma mai sentita? Ma no, quella sugli bane bane. Ah, la conosco! Madonna, ma non ti faceva capolare la bella canzone di una volta? Ma noi la ballavamo. Io ho detto: mizio, probabilmente non ascoltavate le parole. Vabbè, adesso la canzone di una volta era bella perché faceva sorridere la gente, che la trovava eccetera, eccetera, eccetera. No, ma vabbè, è vero. Molte canzoni famose del passato ora non ci sono più, le mezze stagioni. Esatto. Ma guardi, da quando c'è l'euro, quando cantava lui. Cantava lui, vabbè. Faccetta nera, bella piscina. Quelle belle canzoni di una volta. Vabbè, in realtà ce ne sono tante. Tripoli, questo d'amore. E adesso ci sono un sacco di gruppi nuovi che stanno per promuovere il loro nuovo album, tra cui ad esempio i Coldplay, che hanno detto che cambieranno stile. C'è il nuovo album di Ligabue. Che cambierà nuovo. Stile. Che non cambierà stile. Non cambia stile. Cambierà le canzoni. E lo diciamo nemmeno da fan, a parte di. No, ma in realtà, allora, no, ma ci sono canzoni che ti piacciono, sono belle, che giustamente Ligabue non fa impazzire in generale, però molte canzoni sono belle. Le due che ha messo nel primo tempo non sono male. Quella nuova mi sembra una fusione tra Il giorno dei giorni e Le donne lo sanno, eccetera, eccetera. Cioè, quella vecchia, tra l'altro, non si è neanche sforzato di scavarne una vecchia, l'ha presa dal punto. No, ha fatto una fusione. Ah, beh. Vabbè, adesso vedrai quanti commenti negativi. Adesso una telefonata. No, vabbè. Ma sai che ho visto un fumetto in edicola firmato Luciano Ligabue? Veramente, sì? Non disegnato da lui, sceneggiato. Però, allora, adesso ha fatto il libro delle poesie. Poi fa il fumetto. Manca quello delle barzellette come Totti. Esatto. Hanno il libro di Francesco Totti e Luciano Ligabue. Esatto. Non lo so cosa che gli manca ancora. Ligabue entra al caffè Mario. Splash. Che schifo. No, ma è vero, sono così le barzellette, sì. Promuove. Vabbè. In ogni caso, ecco, stavano dicendo in questi gruppi qua nuovi. E vabbè, nuovi e non nuovi, vabbè, adesso stiamo parlando proprio più famoso. C'è l'album dei Queen. Album dei Queen, io ho sentito il singolo, che è anche in classifica, è molto bello. Ho sentito, mi hanno detto che no, ma non assomiglia a Freddie Mercury. Praticamente l'hanno fatto, cioè l'hanno riesumato in qualche modo, perché è Freddie Mercury praticamente. Cioè non era proprio uguale, però... E anche qui riceveremo commenti negativi dei fan dei Queen, verranno a cercare. Allora, no, Riccardo, no. Di... No, no. No, no, in realtà allora, Freddie Mercury rimane unico. Però diciamo la verità che lo stile con cui canta questo cantante è molto, abbastanza, molto simile. Un buon omaggio. Sì. Sì, sì, sì, proprio a livello più che di estensione, proprio come proprio lo stile in generale. Poi, peraltro, c'è prima il batterista che canta, che sembra un vecchio decrepito, sinceramente. E quindi il cambiamento è sicuramente in positivo. Altri gruppi interessanti, visto che parliamo sempre di musica un po' alternativa, musica aperta, musica cioè che possiamo scaricare liberamente senza usare Emule. C'è un gruppo che si chiama. Io non uso mai Emule. No, ma non sto parlando. Tu usi Emule? No. No? Ma per dire. Davvero, ma tu? No, no, io assolutamente no, sono contro, anzi, non mi scarica dire... musica diventa cieco. Esatto. Tu non hai mai masterizzato un CD? Mai? L'ho masterizzato, vabbè, però per scopi personali. I miei dati personali, i miei dati, cioè, personali del suo gruppo. Perché, esatto. Tra l'altro Riccardo adesso ha di nuovo un gruppo, ma poi... Dopo appena abbiamo delle registrazioni probabilmente... Esatto. Tornerà a fare promozione. Sì, tornerò anche per quello. ecco, fare le marchette proprio. Ma no, io volevo parlare di Nine Inch Nails. Un po' un come gruppo... la madre di Nine Inch Nails, io l'ho già sentito. Nine Inch Nails, un gruppo famoso. Che tra l'altro in realtà il cuore di Nine Inch Nails è uno solo, non mi ricordo il nome, uno famoso, un tizio famoso. Fanno rock un po' alternativo, un po' elettronico. Ecco, loro o lui hanno deciso di rilasciare l'ultimo album composto da 4 CD. Il primo CD è liberamente scaricabile da internet, addirittura con una licenza molto permissiva come quella della musica che mettiamo noi, che permette quindi di riprodurla, farla suonare nei podcast, modificarla. Perché abbiamo il braccino cotto. No, peraltro un'altra iniziativa interessante sono i Negramaro scaricabili da MTV. Ah sì, tutti e tre agli album che hanno fatto. Ma quindi... sono liberamente mettibili su podcast. Questo devi parlare con i Negramaro. Ti farò parlare. Vabbè, la prossima volta metteremo anche i Nine Inch Nails, dai. Magari sottofondo, perché è un po' troppo ambient per i miei gusti. Io preferisco musica un po' più grassa. Tu lo sai che tutti i nostri amici adorano i Nine Inch Nails. Altri commenti. Questo podcast ci attirerà dietro. Diciamo anche questo. Vabbè, Vasco non è che sia sto gran cazzo. A par condicio. Esatto. A me Guccini non piace. De André. Oh, che palle. Ieri c'era Guccini a Che tempo che fa. Ho sentito un pezzo. È stato bello. Figo, dire. A me non fa impazzire Guccini. A me piace come personaggio. Però a me non fa impazzire un cazzo. Perché continua a dire che non mi fa impazzire. Vabbè, no, più chiaro. No, okay. Però è stato. Allora, Riccardo. Ah, vita. No, io sono Riccardo, sono E. Oppure sono eccetera. Ho prostata. Prostata, soprattutto prostata. Ma volevamo mettere un gruppo che ci ha colpito molto, anzi, come disse Riccardo molto tempo ci fa, alla risposta. Ma non c'è alla domanda, ma non c'è qualcosa che vi ha colpito, vi ha fulminato? A me ha fulminato molto. Questo gruppo, sempre scaricabile liberamente su Giamendo, se proprio volete, come quelli di Terra e Aria, quelli di profano. Se volete scaricarveli, fate pure. Tra l'altro ce ne sono molti altri peggio, tipo quell'altro che abbiamo allora visto. Peggio lo dice a tua sorella, perché intanto il tuo gruppetto di merda non l'abbiamo ancora sentito. Vedremo. Peraltro voi dovete sapere, che Edo probabilmente canterà e promuoverà i testi, quindi se i testi fan cagare, è colpa mia, è colpa sua, va bene. Ma io sono orgoglione di questa cosa. Vabbè, ma ascoltiamo un attimo, volevo inimicarmi qualcun altro. Sì. Un cuore profano è meglio di Alba Chiara, questo è vero. Ma quale, quello condotto dalla figlia del mago Zurlì? Perché su Retro Music, non so se lo sai. Ah, sì. C'è sì, la figlia. Sì. La figa. Chi è che c'è? La figa di Mago Zurlì. Vabbè, sì. È un lapsus è assolutamente un lapsus freudiano. Perché sì. È assolutamente un lapsus freudiano. No, perché volentieri, se le incontro. Dicevi su News. La figa del Mago Zurlì. Ho detto questo. Chi è che ha detto figa? Qualcuno ha detto figa? Ma si può dire sul podcast la figa? Sì, la, sì. La sorca. La sorca. Così non è milanese. Okay. Adesso ti verrà fuori Lino Banfi. Proietti. La cippa. La cippa. No, vabbè, dicevi questa figlia. Sta diventando figlia di Natale. La figlia del Mago Zurlì, niente, volevo dire questa cosa. Che conduce, no, perché mi sono ricollegato. Conduce un programma intitolato Alba Chiara con la K, come un film orrendo per Giovincelli che è uscito ultimamente. Tipo come dire Vale tanto vale con la W. Esatto, altro gruppo straordinario, i Dari con Vale tanto vale. Se volete farvi una pera in qualche modo, ascoltateveli, perché vi giuro. Sul tutubo anche loro. Fanno rabbrividire, almeno le figlie del vento, cioè comunque orecchiate. Invece è proprio... Le fighe del vento. Si può dire figa? Vabbè, comunque dai, sentiamo un po' questo CD spettacolare. Allora, sono gli Antibiotics con Pine View, un gruppo punk ska, loro dire. Attenti, fate bene attenzione. Ecco. Facciamo risentire un attimino, perché forse non è chiaro. Ecco, allora, una cosa sola. Cazzo, devi suonare, ma non solo devi suonare, devi incidere. Porca puttana, la vuoi accordare quella chitarra? No, una cosa veramente allucinante. Perché il primo accordo mi ha detto, vabbè, un po' stonatino, però ci poteva ancora stare. Però il secondo, secondo me è poco da fare. Una cosa allucinante. Però vabbè, uno dice, vabbè, magari Magari è voluto, sbagliato. Ma voluto fare. Beh, magari è voluto. Vediamo, magari uno dice un po' un suono particolare. Ascoltiamo il resto. Andiamo, andiamo non, non essere sempre prevenuto con questi tipi. Devi essere più umile, cioè devi essere più. Eccolo. Le già qua. Adesso parte, attento. Senti, senti, sentilo qua, senti. Ormai è stonata, non c'è più niente da fare, ma. Vabbè, però qua alla fine. Ma adesso entra il cantante e spacca il culo lui, senti. È uscita da una birreria. Ma no, è voluto. È voluto pure questo. Vogliono un po' troppa roba queste, Terribile, cioè no, ma. Tieni conto. Secondo me ha bisogno di essere risentito un attimo. Aspetta. Questo dice si cinema? Vaffanculo. Togli sta merda. Aspetta che forse riesco a ripararlo. Era meglio prima. Molto meglio prima. Però da fammela sentire. Siete voi che. A me inizia a piacere. Ascolta. Hai visto qua come. Poghiamo. Comincia tu. Vai, vai. Bello. Senza parole. Bello, bello, a me piace. Ma è che poi a suonare a parte lo sai perché mi piace? Perché è umile. Sì. Bravo, sei umile anche tu, allora fai un lavoro umile. The sky is above, guarda che. The sunshine in. Tra l'altro anche un testo. Bisognerebbe vedere. Non c'è neanche una banalità. The sunshine in. No, no, no, ma ci sono i messaggi subliminali anche qua dentro. Ci sono i messaggi. Allora, allora attento. C'è una solo? No, ah. Però c'è lo stacco, è punk. Che cazzo di assolo vuoi mettere? No, no, magari c'è qualcosa di alternativo. Questo è l'assolo del punk, lo stacco. Anche il batterista. Sì, però le chitarre fottono tutto purtroppo. Il batterista è bravissimo. Vabbè, beh, dai, per quello. Insomma, vabbè, tu pensa a questa canzone qua con i cazzo. Rientrano adesso, rientrano. Eccolo, eccolo, eccolo. Monta, monta, vai! Cioè, almeno se tu ci metti la musica copri un po' la voce, non si capisce. Ma così è terribile. Questi qua un plug diventa un disastro. Questa qui l'ha registrata già sotto la doccia, scazzo, tranquillo. No, questa è la cosa brutta, che sono proprio andati a farla. No, ci mettiamo in studio. Dici che questa è proprio la roba da studio? Secondo me sì, la qualità audio, cioè dal punto di vista della qualità è buona. È la qualità, è proprio buona. Qualità. Sono loro che lo so suonare. La chiusura! Bellissimo, sono commosso. Sono mosso a lacrime. Vabbè. Diciamo bravo al batterista e tutti gli altri andate a trovarmi un lavoro valido. Tipo il panettiere. Tipo il panettiere. È un lavoro umile. Oppure sai cosa? Lo spurgatore di pozzi neri. Una cosa divertente. Perché l'altro giorno ero in macchina, no? Ho visto uno col camion dello spurgo dei pozzi neri. Ho abbassato il finestrino e ho detto bravo, lei fa un lavoro umile. La reazione. Ma fa il culo. Ma la cosa divertente è che con questo pezzo di merda, che sembra però riferito a una persona più che a al brano. Lei è una capra, con pezzo di merda. Con questa canzone di merda, questa canzone di chiudiamo merda. Il podcast. No, dai, qui sembra troppo drill. E comunque pezzo di merda era riferito al cantante. Ah, sì. No, vabbè, poverino. Si impegna, si impegna. Tanto abbiamo già Vasco, Ligabue. Ma sai che gli antibiotics ci ascoltano. Ah, sì, sì, sì. Sapete che gli antibiotics fanno male prese alla lunga? Sì, perché al fegato fanno male al fegato, riducono alle palle, cioè, ti rendono cieco, riducono la flora intestinale, sì, e influiscono e quindi sulla regolare. Devi ascoltare gli Actimel, sì, esatto. Metti gli Actimel, allora mettiamo, allora dai, mettiamo un bel pezzo, un pezzo rock, sì, di quelli però seri, sì, fammi sentire un po' un bel pezzo da Giamendo. Giamendo Sherman a rapporti, Sherman a rapporti. Va bene, l'ultimo pezzo di oggi si intitola Otra Canción ed è interpretato da un gruppo di cattivazzi rocchettari che si chiamano Roccaina. Non lo so, ho l'impressione che sia, potrebbe essere un film porno, per quanto ne so. Stupendo. Daniele. Salve poi, a tutti. Poi il solito Edo e poi... Prostata. also known as Riccardo. Ciao a tutti, ciao. Ultimi saluti, ci rivediamo la prossima volta. Ciao. Salve. Chi cambia canale non sa usare le conchigliette! Ciao! Grazie mille, figlio di puttana testa di cazzo, fottuto rompipalle, stronzo di merda. John Spartan, lei è deputato di 5 titoli per ripetute... Sono meglio delle conchigliette. Punto.